Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi, sabato di Pasqua, un'altra puntata che ci proietta nel futuro insieme a quei giovani imprenditori innovativi che stanno progettando l'economia dell'avvenire. Purtroppo spesso lo fanno fuori dall'Italia. Anche i protagonisti della puntata odierna lavorano infatti all'estero, dopo aver fatto parte di un selezionatissimo gruppo di giovani che hanno frequentato la Singularity University in Silicon Valley. Oggi in esclusiva Giovani Talenti parla anche il commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor, che ammonisce: in Europa serve una circolazione dei talenti, il flusso dai paesi non può essere solo in uscita. Ma per cominciare torniamo al protagonista di questa settimana. Diciamo che l'occasione l'ho cercata, purtroppo è stato un paese che mi ha riservato molte delusioni. Cioè, delusioni in che senso? Ma sono una persona che ha molte idee, forse troppe a volte, e vedersi chiudere a volte le porte sulla faccia. Luca Escoffier, 36 anni, è fondatore e amministratore delegato di Usquad Sidera, azienda specializzata nel trasferimento tecnologico. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura la ricerca shock di Kelly Services, secondo cui la quasi totalità degli italiani che hanno già un'occupazione si dichiarano insoddisfatti del proprio lavoro. Ben 9 su 10 sono disposti a trasferirsi, 1 su 3 all'estero, 4 su 10 tra gli under 30 pronti a varcare i confini. Tra i futuri emigranti, 1 su 2 sceglie l'Europa. E ora l'intervista esclusiva di Giovani Talenti al commissario europeo Laszlo Andor, che ha una nostra domanda sull'emergenza brain drain in Italia con decine di migliaia di giovani obbligati a lasciare il paese, risponde così. We speak about mobility. La mobilità all'interno dell'Unione Europea, dice Andor, è fondamentalmente positiva. Parliamo di opportunità reali. La mobilità può arricchire la professionalità e rafforzare le basi per la carriera successiva grazie alle esperienze in altri paesi. Ma la mobilità deve essere circolare. A un certo punto deve essere possibile poter tornare a casa e avere opportunità di successo nel proprio contesto economico. And be successful in the local economy. Nel mio futuro non c'è l'Italia, lo afferma Simone Piras, 20 anni, studente di ingegneria informatica a Pisa, che con due amici cagliaritani ha vinto un concorso bandito proprio dall'Unione Europea ai giovani e le scienze. Hanno inventato Gavin 1.0, un robot che gioca a morra. A Maria Piera Ceci, Simone spiega così i motivi della sua futura fuga dal paese. Sicuramente andare all'estero, possibilmente anche fuori dall'Europa, per il semplice motivo che, parliamoci chiaro, in Italia le possibilità sono molto molto poche. E se pensi all'Europa, quale sarebbe la tua città preferita? Probabilmente o Svizzera o Germania, leggermente lontano dall'Italia. L'apice sarebbe andare in America, dove giustamente si spende tantissimo per la ricerca e si è valorizzati tantissimo. L'occupazione non riparte, i precari sono sempre di più e aumentano i giovani senza lavoro. È il quadro allarmante delineato dalla Banca d'Italia nell'ultimo bollettino economico. Sono tornate a crescere, sottolinea Banca Italia, le assunzioni con contratti flessibili a tempo parziale ed è proseguita la contrazione delle posizioni permanenti a tempo pieno. In crescita pure la disoccupazione giovanile. E per l'OCSE preoccupa in Italia la disoccupazione di lungo termine. Dobbiamo creare condizioni e opportunità affinché i giovani talenti tornino in Italia con le loro esperienze maturate, delle quali il nostro paese potrà beneficiare. Così il presidente del Senato Renato Schifani, intervenendo alla presentazione del programma nazionale di ricerca. Nel prossimo triennio l'Italia intende investire su progetti e infrastrutture capaci di attrarre cervelli dall'estero. Spazio, fisica delle particelle, nanotecnologie, pronti 1.772 milioni in 3 anni da destinare a 14 progetti bandiera. La ballata dei precari.com, a questo indirizzo web le prime immagini del film indipendente composto da 6 episodi e in uscita quest'estate, che racconta l'universo della precarietà giovanile in Italia. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero, oggi vi segnaliamo. Una capo unità allo European Institute of Public Administration di Maastricht in Olanda, scadenza per i CV 1 maggio, info su eipa.eu. Un capo della comunicazione all'istituto Love Langvin di Grenoble in Francia, scadenza per i CV 2 maggio, info su il.eu. E infine un senior research analyst all'OPEC di Vienna, scadenza per i CV 29 aprile, info su opec.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta in Giappone, prossima meta del protagonista della puntata di oggi. Nome: Luca. Cognome: Escoffier. Età: 36. Città di origine: Roma, Trieste. Studi: giurisprudenza, economia, tecnologie esponenziali. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2001, 2003, 2008. Per andare dove? New York, Ginevra, Seattle. Perché? Studio, lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Amministratore delegato della mia azienda statunitense. Dove? Mondo. Tornerai? Forse. atmosfere giapponesi per introdurre la storia di Luca Escoffier. Nel mio campo, il trasferimento di tecnologia è importante essere proattivi e originali nel proporre nuove soluzioni per invogliare i potenziali licenziatari. Negli Stati Uniti sono i numeri uno anche in questo, con soluzioni che in Italia non vengono implementate. Tutto ciò ha cambiato il mio modo di lavorare e interpretare il concetto di professionalità. Una professionalità che ora è incompatibile con l'ecosistema italiano, dove l'attesa è la regola e gli inconvenienti la norma. Così scrivi Luca a giovanitalenti@radio24.it. Quanto siamo distanti? Questa è la mia domanda per cultura e valorizzazione della meritocrazia, quella vera, dalle principali economie avanzate? Siamo molto distanti. Nel mio campo si è molto distanti dalla competenza che in realtà è richiesta. Questo proprio per una questione strutturale anche di apprendimento a livello universitario. Nel mio campo diciamo che è necessaria una competenza variegata che il sistema italiano al momento non ci offre. Ti laurei in giurisprudenza all'Università di Parma nel 2001 alla luce di quanto farai successivamente. Come mai questa scelta così tradizionale? Da giovane pensavo che studiare legge fosse la cosa più interessante, poi invece l'amore per le tecnologie ha preso il sopravvento e quindi mi sono imbarcato in questa strada. E nel 2001 ti iscrivi a un master in diritto industriale, perché? Stavo leggendo questa rivista di diritto mentre ero in studio una sera e ho detto, beh caspita, parlare di brevetti, di tecnologie, di diritto d'autore e di marchi penso possa essere qualcosa di interessante. E ci hai visto giusto. Nel frattempo, tra il 2001 e il 2008, la tua vita procede su binari, diciamo, normali, lavori in due studi legali, poi passi a un'azienda biotech italiana come consulente legale. E allora analizziamo per un attimo la tua esperienza tricolore. Prima di tutto, quanto per te è stato semplice trovare lavoro e la selezione è stata meritocratica? Diciamo che sono stato abbastanza fortunato, ho avuto le prime occasioni di lavoro diciamo abbastanza legate agli studi fatti e soprattutto l'ultima esperienza, quella che poi è durata di più presso questa azienda che si occupa di biomedicina, praticamente è stata immediata. Io ho mandato una lettera all'amministratore delegato, ho detto io sono capace di fare questo, questo e questo e il giorno stesso sono stato chiamato. In sintesi però, il giudizio della tua esperienza lavorativa in Italia? Per quanto mi riguarda positiva, ma sicuramente mancava un tassello che stavo cercando da molto tempo e quindi è stato assolutamente necessario, appena si è presentata l'occasione nel 2008, di andare fuori. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. E come canta Caparezza in Goodbye Malinconia, anche tu alla fine te ne vai nel 2008, quindi solo 3 anni fa la scelta, lasci l'Italia e ti trasferisci a Seattle per fare cosa? Per prendere un sacco di piogge, innanzitutto, perché come sai là piove veramente parecchio. Sono andato a lavorare all'Università di Washington e ho lavorato per circa 2 anni e mezzo lì come visiting lecturer presso la scuola di legge. Beh, ci spieghi come avviene la selezione, il percorso di selezione oltreoceano? C'era una call per dei visiting researchers, visiting lecturers, che erano interessati a passare più o meno circa un anno all'università e io ho fatto semplicemente domanda. Beh, semplicemente in Italia non è così diretto, Luca. Probabilmente no, non è così diretto e non è così semplice. Anche perché tu poi in una email a Giovani Talenti dici in Italia troppi sono infranti. Questo ti ha portato a emigrare? Sì, sicuramente sì, oltre al fatto che ovviamente si sia presentata l'occasione, diciamo che l'occasione l'ho cercata. Purtroppo è stato un paese che mi ha riservato molte delusioni. Cioè, delusioni in che senso? Ma sono una persona che ha molte idee, forse troppe a volte, e vedersi chiudere a volte le porte sulla faccia non è stato proprio il massimo. Troppo giovane, troppe idee, no? Dovevi aspettare il tuo turno, non l'hai fatto, e così sei andato negli Stati Uniti. La tua principale branca di specializzazione è il trasferimento tecnologico. Ci spieghi esattamente di cosa si tratta? Il trasferimento tecnologico in senso stretto viene inteso come quell'insieme di attività che riguardano la cessione o la licenza di diritti brevettuali o di know-how. In senso lato vuol dire quel tipo di attività e di iniziative volte proprio a trasferire una tecnologia che viene impiegata da un determinato imprenditore, a un determinato luogo, ad un altro. Negli Stati Uniti la tua carriera prende il volo, vieni selezionato nel 2009 dall'Istituto di Diritto Industriale dell'Ufficio Brevetti giapponese, dove andrai a lavorare per un periodo, e nell'estate del 2010 finisci addirittura sulle pagine del Corriere della Sera come uno dei 7 giovani italiani arrivati in Silicon Valley e inseriti in un team di 80 colleghi da tutto il mondo, selezionati per un progetto di apprendimento imprenditoriale. Stiamo parlando della Singularity University. Ci spieghi allora di cosa si tratta, come ci sei arrivato? Singularity University, è un progetto imprenditoriale, accademico, estremamente interessante, che è stato voluto da alcuni leaders che si trovano negli Stati Uniti, e quindi troviamo soggetti come Larry Page, quindi Google, troviamo la NASA, troviamo Autodesk e molti altri partners che poi nel corso degli anni si sono aggregati all'idea. Nel maggio del 2010 fondi nello stato di Washington Usque Ad Sidera, la prima parte di una locuzione latina, tra l'altro, ed è la tua azienda. È stato semplice aprire questa impresa? Soprattutto di cosa si occupa? Semplicissimo aprirla. Come si sa, negli Stati Uniti è molto, molto semplice diventare un imprenditore. Di cosa si occupa? Di tutte quelle cose di cui abbiamo parlato, quindi valorizzazione della proprietà intellettuale, valutazione della proprietà intellettuale e aiuto a coloro che vogliono trasferire le loro idee e tecnologie, se già esistenti, verso nuovi paesi e verso nuove persone. E tu, attraverso Usque Ad Sidera, avvii un programma di mentorship a Seattle per imprese italiane in collaborazione con Startup Business, il network degli innovatori italiani. Allora, quanto potenziale hanno queste imprese innovative italiane, Luca? Ne hanno tantissimo anche i ragazzi che vogliono aprire delle aziende e purtroppo non sanno a chi rivolgersi. Abbiamo creato questo programma per aiutare proprio queste persone in una maniera molto molto concreta, quindi per incontrare avvocati, commercialisti, potenziali partner, persone da assumere, eccetera eccetera. Quindi da zero alla creazione di un'azienda lì. E ora la seconda sorpresa della tua storia, dopo quella americana, la seconda parte: a maggio tu trasferirai la tua impresa in Giappone. Perché questa scelta? La scelta è dettata dal cuore. Mia moglie lavora a Tokyo e vive a Tokyo e quindi semplicemente vado a ricongiungermi. Ma non ci sarà solo questo, perché tu scrivi: il Giappone è un paese in cui ci sono tante regole, ma la professionalità delle persone è altissima e c'è una grande considerazione dell'onore. In Italia vedo inerzia e soprattutto la tendenza a premiare chi fa il furbo. Fino a quando adotteremo questo approccio, l'Italia sarà destinata all'oblio. Allora, quanto è facile aprire un'impresa in Giappone e quanto lo è in Italia? Questo francamente ancora non lo so, so però cosa voglio dire avere a che fare con loro, e sono rimasto stupito per esempio quando ho capito a volte che non è necessario neanche sottoscrivere un contratto, ma basta una stretta di mano. Domanda di rito, Luca: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Darei sicuramente molto più potere ai giovani, molte più occasioni e soprattutto un sistema di incentivi da parte del settore pubblico che possa poi effettivamente constatare se ci sono dei risultati concreti nel breve termine. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Luca Escoffier, 36enne, fondatore e amministratore delegato di Usque Ad Sidera, azienda specializzata nel trasferimento tecnologico, ormai prossima al trasloco in Giappone dopo un periodo di avviamento negli Stati Uniti. Luca vi è arrivato dopo una laurea in giurisprudenza, un master in diritto industriale e alcune esperienze di lavoro, soprattutto a livello legale, in Italia. Tre anni fa ha lasciato alle spalle il bel paese, si è trasferito in America, dove ha lavorato come visiting lecturer alla University of Washington, per poi frequentare un dottorato al Queen Mary College di Londra e trasferirsi per un periodo presso la prestigiosa Singularity University. E ci raggiunge ora in linea Chiara Giovenzana, amministratore delegato di Celtec Biotech a Basilea. Buon pomeriggio, Chiara. Buon pomeriggio, ciao. Chiara, tu hai un trade union ben definito che ti unisce alla storia di Luca. Anche tu, infatti, hai frequentato la scorsa estate la Singularity University. Sei dunque una delle nostre eccellenze, diciamolo. Cosa ti è rimasto di quella esperienza? Al di là delle conoscenze tecniche, scientifiche, imprenditoriali che ho ottenuto, soprattutto l'aspetto umano, ho conosciuto persone fantastiche con cui ho potuto costruire bellissime amicizie. In breve la tua storia, Chiara, perché è pure molto interessante, no? Tu praticamente per 20 anni non hai mai lasciato il tuo nido di Modena, dove sei cresciuta, poi un Erasmus in Finlandia ha cambiato la tua vita, e da lì cosa succede, no? Ohio, California, raccontaci. Da lì non mi sono più fermata, quindi sia durante il dottorato in biotecnologie che anche dopo, grazie alla Fulbright Best e alla Singularity, ho girato parecchio, quindi Stati Uniti, Svizzera, di nuovo Stati Uniti e di nuovo Svizzera adesso. Infatti, la tappa fondamentale per il momento della tua carriera è la creazione di una biotech company a Basilea, della quale sei amministratrice delegata. Niente male per una donna poco più che trentenne. Quanto è stato semplice iniziare questa scommessa e di cosa ti occuperai? È stato semplicissimo iniziare, come dice mia mamma, beata in coscienza, perché non sapevo quanto sarebbe stato complicato, ma è veramente molto bello, molto divertente. Mi occuperò di guidare questa company e quindi verso il successo, insomma, questo è l'obiettivo. E con Luca e altri 5 reduci dalla Singularity University avete avviato il progetto Singularity University for Italy. L'obiettivo è quello di contribuire a trasformare il modo di innovare in Italia, migliorare la competitività delle imprese e del nostro sistema economico. Allora, vogliamo creare un ponte tra l'Italia e le più innovative realtà del pianeta? Questa è la vostra mission? Avete trovato orecchie, soprattutto, pronte ad ascoltarvi in Italia? C'è tantissima gente che ha voglia di cambiare le cose, ha voglia di rimboccarsi le maniche per farlo. martedì scorso eravamo a Trieste alla Sissa e abbiamo avuto la conferma ancora che veramente ci sono persone che hanno questo desiderio. Però, come dici tu, per arrivare a questo occorreranno anche cambiamenti radicali in Italia, no? Anche perché tu possa, e questo è il tuo sogno, trasferire un giorno la tua impresa in Italia. Chi e come potrà portare in porto questi cambiamenti? Dacci una pista. Credo che questi cambiamenti dovranno venire dal basso, quindi non tanto dalle istituzioni, ma dalle persone, da persone come noi che nel loro piccolo iniziano a cambiare le cose, ad andare avanti con metodi più meritocratici, ad esempio, e poi assieme si potrà fare il cambiamento, le istituzioni dovranno per forza adattarsi. Chiara, un tuo collega della Singularity University italiano ha dichiarato: alla Singularity University ho incontrato persone di grande successo che si presentano al pubblico con grande naturalezza, cosa che raramente si vede da noi. Allora, è questo che fa realmente la differenza in termini di classe dirigente tra Italia e Stati Uniti? Sicuramente è una delle motivazioni. Se sei veramente bravo, non hai bisogno di andare in giro a dire guardate quanto sono bravo e non hai bisogno di trattare gli altri con superiorità. E quanti ne vediamo così in Italia, vero? Beh, non voglio commentare, ma sì, i numeri sono grandi. È un paese pieno di questi, sì, di questa tipologia di persone, no? Sì, in Italia è molto difficile trovare persone che con umiltà facciano il loro lavoro e non puntino al riconoscimento. E fin tanto che in Italia si punta ad essere riconosciuti piuttosto che a fare le cose bene, non si possono migliorare le cose dal punto di vista di chi comanda, delle istituzioni, insomma. In una parola, guardare ai risultati e non alle relazioni personali o alla propria carriera. Quando finiremo di praticare questo sport, forse cambierà anche il paese, no? Esatto. Grazie a Chiara Giovenzana, veramente in bocca al lupo per la tua carriera e i tuoi progetti con la tua azienda. E ora domanda di rito per Luca Escoffier: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Sicuramente di mandare una mail al gruppo di italiani che è andato a Singularity, controllare il sito SU4I e niente, scriverci una mail come abbiamo suggerito martedì scorso a tutti i giovani che hanno voglia di cambiare qualcosa. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova emigrazione. Oggi proseguiamo la nostra inchiesta in collaborazione con il Ministero degli Esteri sui numeri della nuova emigrazione nelle città simbolo dell'espatrio dei giovani professionisti. Tappa in Australia con Benedetto Latteri, console generale a Sydney. Gli italiani presenti nella mia area, che intendiamo il Nuovo Galles del Sud, uno degli stati dell'Australia, sono circa 37.000. Di questi 37.000 residenti permanenti, io ne conto tra i giovani emigrati una cifra che negli ultimi 10 anni raggiunge il numero di 7.900. Nell'ultimo anno vengono registrati in entrata 237 persone. Di queste posso considerare giovani in base al tipo di visto e all'attività che fanno un 200 circa. Quindi una percentuale importante. È una percentuale importante per l'Australia. Il Nuovo Galles del Sud con Sydney è uno dei due poli maggiori di attrazione in Australia per chiunque venga qui in questo paese, insieme a Melbourne. Con questi dati un po' uno può avere l'idea generale del paese anche. È un flusso in crescita quello dei giovani che vengono in Australia? È un flusso in crescita, nel senso che non riesco a dare delle cifre precise, una statistica precisa, ma dalla percezione, dagli incontri, dalle visite corte che faccio, percepisco una crescita di interesse generale dall'Italia verso l'Australia. E in particolare dei giovani che vengono qui per vari motivi. Se dovesse proprio sintetizzarli? Ne individuerei due principali: il lavoro e lo studio intenso come università, studi universitari. Sono sempre più i ragazzi che vengono nelle università australiane a studiare e qui i numeri sono abbastanza alti. E poi il lavoro. E proprio sul lavoro, a livello professionale, quali sono i motivi che rendono Sydney attraente per un giovane professionista italiano? L'Australia è, dai nuovi arrivati, è considerata come un posto che nel mercato del lavoro, nella vita, nella società è molto aperto e trasparente e in cui le varie procedure sono relativamente veloci. Un posto dove c'è la sicurezza del guadagno sostanzioso. E il terzo motivo, probabilmente per una categoria importante, per me importante, di nuovi arrivati, quelli dei ricercatori, dei professori,